Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Sono in compagnia di Benedetta, che avete sentito anche nelle scorse settimane. Ciao a tutti. E noi siamo qua per continuare a parlare del... Lui è Pietro. Grazie, cara. E siamo qua per continuare a parlare del tema che avevamo iniziato la scorsa giornata, esatto, contro mafie, che appunto, Bisa, faccio un breve riassunto per, sì, per allora, i pochi che non hanno sentito la scorsa puntata. Esatto. La scorsa puntata abbiamo fatto una breve introduzione riguardo a quella che era la logistica di contro mafie, quindi... la distribuzione rispetto ai giorni dei programmi e io e Stefano, che è il ragazzo con cui ho condotto la scorsa puntata, abbiamo parlato dei singoli seminari a cui abbiamo assistito. Sì, ricordiamo che contro mafie sono stati gli stati generali dell'antimafia, sono tenuti a Roma dal 24 al 26 ottobre e sono stati un bel momento, diciamo. Sì, è stato un bel momento molto impegnativo che ha riguardato una serie di contesti e soprattutto di un'autoverifica, quasi un auto appunto controllo di questi 20 anni di Libra, quello che abbiamo sbagliato, quello che dovremo fare in futuro. In proposito, penso Pietro sia giusto parlare dell'altro aspetto di Contromafia, l'altro aspetto che è quello più fresco, quello di Contromafia appunto giovani, che è stata una attività parallela all'evento invece nazionale che coinvolgeva la tutti. Esatto, perché infatti Contro Mafia è stato aperto il 23 ottobre da un momento dedicato proprio ai giovani di Libera, che si sono ritrovati a Corviale, che è un posto della periferia di Roma, un posto, direi, un non luogo della città. Un sì, posto... io lo definirei una realtà più autentica e meno nota, ma comunque più, sì, appunto, autentica e vera, forse specchio di un'Italia che pochi di noi conoscono, ma che esiste ed è la maggioranza. Considerate che eravamo in questo posto e davanti c'era un palazzo... tipo lunghissimo, che sembrava una sorta di nave arenata su una spiaggia e che contiene qualcosa come 6.000 inquilini, quindi davvero un posto dove anonimo e grigio, però proprio in questo posto è sbocciato un fiore, possiamo dire, perché è nata questa comunità che si chiama Calcio Sociale e che appunto porta avanti l'inclusione sociale e l'aggregazione attraverso lo strumento, direi, più bello e più facile, anche, che è lo sport, che è il calcio, che è il nuoto. Infatti all'interno di questa comunità si organizzano in dei campi, tra l'altro bellissimi, fatti con il cocco. Va bene, dettagli tecnici per gli esperti. Ho provato a mangiare, convinto. Ah, va bene, ti sei passata al campo di Corviale. Ah, ok, meglio così. E però possiamo dire appunto che... Sì, diciamo che è peculiare per le regole, perché usa lo sport come forma di educazione. Ve ne cito alcune. Il rigore lo fa il soggetto più debole, che possa avere dei deficit in generale e comunque più forti, che magari hanno più... sono più portati a segnare gol, oltre 3 gol è il limite massimo, per cui sono costretti poi a passare la palla, quindi è un gioco che si basa sul passo del più debole, è usato lo sport come forma di integrazione e come riavvicinamento sociale. Esatto. Giocano tutti, non c'è limite di età, non sono richieste competenze, e penso almeno modestamente come mia opinione che sia il vero senso di uno sport, sia una forma di educazione, una forma di compartecipazione ed è veramente bello, è stata come esperienza, cioè, sentire parlare le persone a riguardo e spero venga comunque portato in altri A me ha colpito molto una signora che diceva: mio figlio fa schifo il calcio, però io lo porto comunque perché è un posto troppo bello. Quindi questa è un po' l'atmosfera che si respira. E noi abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti appunto nella palestra di Calcio Sociale a Corviale. Sì, fortuna, lasciamo poi perdere magari i disagi. Si dormiva in una palestra, esatto. Certamente, un po' scomodi. Però è stato molto bello perché poi abbiamo condiviso le nostre, le loro esperienze. E ci ha raccontato che appunto oltre al calcio, per esempio, fanno anche iniziative, non so... ogni squadra deve prendersi 90 minuti per discutere di una poesia e poi sì, ne parlano insieme. Sì, che poi vale come punteggio, come se avessero giocato una partita. Quindi per davvero cui c'è un dibattito riguardo hanno tirato fuori delle belle iniziative. E noi siamo stati ospiti loro per 4 giorni. Il primo giorno è stato proprio dedicato a noi perché abbiamo organizzato dei seminari appunto dedicati ai giovani di Contromafie. Seminari che hanno poi ricalcato quelli di cui abbiamo parlato la scorsa volta. E ci siamo divisi nei vari seminari. Io ho fatto per esempio quello sull'informazione, che è stato molto bello. Io ho fatto sempre il tema legato al principio di, insomma, la dignità sociale. Si è parlato molto di del reddito minimo, del reddito legato alla cittadinanza. E una cosa che a me ha colpito molto è stato il non rendersi effettivamente conto di cosa sia la povertà, che probabilmente noi ne parliamo con una certa concezione stereotipata, senza aver mai preso mano e contatto con quello che effettivamente è, e soprattutto quanto vada a incidere dei soggetti inimmaginabili, cioè che sia più comune e diffuso di quello che possiamo prevedere. E sono uscite anche delle cose molto belle da Giovani Contro Mafia, che poi sono state portate nella giornata finale dal nostro amico Turi, ben intende. E che in sostanza quello che ci siamo detti è che noi non vogliamo certo una Libera dei Giovani staccata dall'associazione in generale, ma vogliamo piuttosto una giovane libera, una libera che dopo 20 anni si torni a essere fresca e innovativa come lo è sempre stata e come lo era soprattutto all'inizio. Quindi questo è un po' il messaggio che abbiamo lanciato e che è stato, direi, recepito alla grande anche da parte di tutto il nazionale, e quindi siamo molto contenti dell'esito delle 4 giornate. Credo che sia positivo fare dopo 20 anni una sorta di come si dice, autocorrezione, perché se ancora il fenomeno esiste e nonostante tutti i tentativi per rimediare al tal fenomeno, vuol dire che magari vanno corretti. Quindi è importante, credo, in qualunque attività del campo umano fare questa sorta di autovalutazione e prendere appunto il buono ma anche il male e correggere gli errori fatti. Lanciamo un pezzo? Sì. Allora, vai tu, l'hai scelto tu. Una dedica addirittura. No, non è una dedica, però sì, diciamo che è un suggerimento venuto da un'altra città, da Milano, per un mio caro amico. E il titolo è Una, è di Lucio Battisti, una canzone molto bella che non conoscevo, lo ringrazio. È il Pera, si chiama Michele Peruzzi. Il Pera, che questo è per te. Viene spesso a Bologna, per cui Bologna ricambio. Gente, ma non ti importa niente, perché tu non lo sai. Tu vivi per ballare, sei in cerca dell'amore, ma quale amore, ancora non lo sai. Oh, io ti apro il mio cuore, tu fai finta di ascoltare, ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare. Ma perché proprio tu nella mia vita, che con te prima ancora di cominciare è già finita. Ma perché proprio tu con quella faccia, è possibile che mi piaccia una come te? Io cercavo una ragazza con un fiore fra i capelli, tu sorridi a brutti e belli e un giardino in testa hai. Ti accontento in ogni cosa, tutto ciò per una rosa che non ha nessun profumo, che è di plastica oramai. Ah, io ti apro il mio cuore, fai finta di ascoltare, ed intanto guardi in giro, vuoi qualcosa da mangiare. Ma perché proprio tu nella mia vita, che con te prima ancora di cominciare è già finito. Ma perché proprio tu con quella faccia, è possibile che mi piaccia una. Did it, did it, did it, did it, did it. Allora, prima di continuare a parlare di Contromafia e di parlarvi della giornata finale, ci tenevo a dirvi solo due cose che a noi di Libera stanno a cuore. Cioè, intanto che, insomma, la vicenda di Stefano Cucchi e del suo processo è stata terribile e noi appoggiamo la campagna che ha lanciato tutti i social network e in generale anche Libera per davvero chiedere chiarezza per un processo che chiarezza non l'ha certo portata. E poi l'altra cosa è, vi invitiamo tutti il 14 novembre a farvi sentire, anche a venire proprio di presenza all'udienza del processo Black Monkey, il processo che si sta tenendo a Bologna, in cui ci sono varie imputazioni per mafia, in cui parlerà Giovanni Tizian, il giornalista che è stato minacciato e che è al centro appunto del processo. Esatto. Quindi due piccoli spot così. Torniamo a parlare di Contromafia. Esatto. Bisa, e a noi piacerebbe anche dirvi un po' le proposte che sono uscite, perché non si è solo parlato. Sì, e se l'hai diciamo raccontata. Che per precisare che queste giornate servivano poi per redigere un manifesto con delle proposte chiaro, cioè, a posto, concrete, che sono 10. Esatto. Io leggo le prime 5 in maniera molto così sintetica. Allora, primis, restituire piena dignità a tutti, con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Valorizzare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e alla corruzione come strumenti per la creazione di un nuovo welfare. Garantire la formazione continua del cittadino per renderlo parte attiva della battaglia contro il crimine e il malaffare. Difendere il ruolo dell'informazione come garante della democrazia, appunto, come dicevamo di Tizian, con il rilancio del servizio pubblico, la tutela dei giornalisti esposti a querele e minacce, il sostegno a produzioni di qualità. Rompere i legami tra mafia e politica, assicurare trasparenza ai procedimenti pubblici, con l'approvazione di una legge anticorruzione che davvero recepisca le direttive europee. Poi ancora, aggiornare gli strumenti di contrasto alle mafie, estendendo i mezzi di indagine già sperimentati ai reati di corruzione e alla più grave criminalità d'impresa. Istituire il 21 marzo come giornata nazionale della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Restituire alla collettività tutti i beni confiscati, ai mafiosi ma anche ai corrotti, con una reale capacità d'azione dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Contrastare l'economia illegale che condiziona lo sviluppo di interi territori e comunità. Ed infine introdurre reati contro l'ambiente nel codice penale. Come vedete, non sono cose buttate là, ma sono state pensate e davvero discusse all'interno dei seminari, all'interno di Contromafia. E soprattutto possibile, perché quello che almeno io ho la percezione è che tante volte si fanno le proposte, però poi dopo dice sì, vabbè, ma come si fa? Non ci sono i fondi? No, sono non cose ce la che... fo. Esatto, sono cose che se vuoi le puoi fare. Esatto, e che hanno, esatto, hanno senso fare e sarebbero utili per tutti. E insomma, credeteci quando vi diciamo che noi continueremo a monitorarle quotidianamente. Queste proposte non cadranno nel dimenticatoio, ma noi chiederemo la reale applicazione di tutte queste, perché sono la base per ripartire e per costruire uno Stato innanzitutto basato sui diritti, perché lo sappiamo, il modo migliore per contrastare le mafie è dare più diritti alle persone, sulla giustizia sociale e sulla anche naturalmente anche una parte di prevenzione anche nei confronti della corruzione. Esatto. Dobbiamo chiudere purtroppo, vi sì, parleremo per altre 500 ore, però purtroppo è anche chiudere, ci taglia. Dai, una canzone tipica meridionale. Grazie. Direi. No, io ci tenevo a lanciare questo pezzo di Dutch Nazari, che è Falling Crumbs. Lui è un rapper padovano, a me piace molto, mio concittadino, quindi ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima, direi. Ciao, ciao, ciao. Piacere. L'inevitabile è evitabile, ne ho le prove. Sogno giornate aride se il cielo si commuove, per scongiurare che è due settimane che piove. Chiudo un joint con la cartina, torna sole e torna il sole. Così la meteoropatia tiene il suo riscatto. Sulla mia scrivania ho schemi sul contratto, sporchi di caffè e tazzine da caffè, sporche di nero afghano e tabacco. E neanche l'avevo seguita quella lezione, e se ero lì col corpo c'avevo la mente altrove. E quando mi chiedi conto della mia distrazione, ti affronto come affronto gli attacchi di depressione, cioè con un sorrisone. Non è per fare moralismi, ma chi è infelice spesso lo è perché non guarda oltre la superficie. Spesso la gente a cui provi a mostrare il quadro sorride soddisfatta e poi dice: che bella cornice. tu mi fotti come il lupo con quegli occhi grandi. Mi fai la guerra senza mai arrabbiarti, Mahatma Gandhi. Io scrivo come Barney, la mia versione per giustificarmi. Umano come gli altri provo a disintossicarmi. A volte tu mi ami solo per farmi un dispetto. Io che vorrei ammazzarmi senza alzarmi dal letto. Sì, te lo prometto e poi, come non detto, scivolo via come la pioggia sul tetto. Il mio umore è un fucile carico, puntato al petto. Crisi di panico, premo il grilletto. Freddo polare, io bipolare, è un mio difetto. Ma compenso con le scuse che dispenso. La solitudine è solo un punto di vista. A volte una condanna, a volte una conquista. Ogni verità è una sentenza qualunquista. E chi insegna storia dell'arte non è un artista. Falling crowns from my heart today. I'm gonna feed my soul tomorrow. I still believe that it fights my heart. Then the sun will be follow. Falling crowns all over my table. Say, don't feel the sorrow today. Io non ho mai capito il mito della razza, gli estimatori di Benito. Nella piazza la corruzione di partito, la terrazza con vista su un colosseo scolpito di marmo e granito. Nato a qualche chilometro dal mare, nel Veneto del popolo del fare. Della domenica mattina a messa e dopo aperitivo al bar centrale. Dio e poi il nome di un animale, come intercalare. Come un ritratto tratto da vecchie pellicole di persone diversamente libere, ciascuno nel suo piccolo pianeta. Come il piccolo principe incapace di vedere ciò che ha gli occhi invisibile. Una foglia scivola nel Brente e diventa pesce, poi fiume, poi mare, poi muore, poi cresce. Non puoi dire che il mondo fa schifo se ne apprezzi l'arte, che più mi ci perdo dentro e più ne divento parte. Ciao ragazzi, sono Carolina. Oggi per il nostro Buffier vi voglio parlare di uno splendido festival chiamato Scriba Festival, che si terrà appunto a Bologna dal 7 al 9 novembre, quindi incomincia domani. È il primo festival dedicato alla scrittura di mestiere. Ah, bello, ma chi lo organizza questo festival? Il progetto è stato creato da Finzione Associazione Culturale, che è in collaborazione con Bottega Finzioni. Bottega Finzioni, che si occupa di... Bottega Finzioni ha come scopo quello di far diventare la scrittura un vero e proprio mestiere. Quindi dal 7 al 9 novembre Bologna si trasformerà in un enorme laboratorio che ha come tema appunto quello della scrittura e che offre la possibilità di incontrare professionisti di diversi settori. Cavolo, interessante! E mi piace un sacco come Carlo Rucarelli parla di Scriba. Infatti Carlo dice che Scriba è un momento per proprio mettersi a ragionare su tutto quello che ruota attorno a un racconto, partendo dalla cosa scritta per arrivare al motivo per la quale appunto è proprio stata scritta. E oltre al Carlo Rucarelli ci saranno anche altri personaggi importanti? Sì, ci saranno un sacco di ospiti e i protagonisti di Scriba saranno i professionisti che appunto hanno fatto della scrittura il loro mestiere e che racconteranno le loro esperienze. Tra questi protagonisti c'è anche Marcello Fois, che si occuperà del linguaggio degli annunci immobiliari, che è una cosa un po' particolare, e Paolo Nori, che invece tratterà le parti riguardanti i testi delle polizze e che sarà affiancato dal dirigente assicurativo del gruppo Unipol. Gli altri ospiti invece sono Silvio Bozzi, Enrico Castellani, Lia Celia e Alex Corlazzoli, Giovanni Galeotti, cioè ce ne sono veramente un sacco, che si occuperanno di svariati temi come teatro, satira, cinema, interrogatori, di tutto di più, insomma. Senti, caro, ma io ho sentito che ci saranno anche tantissimi workshop curiosi, per esempio se vuoi ti insegnano a costruire i cruciverba. Esatto, cioè proprio sono cose abbastanza particolari. Un altro workshop molto interessante, questo organizzato da Bottega Finzioni, si terrà il 19 e il 20 e sarà sul comic e lo terrà Alessandro Tota. Il festival comunque si aprirà con appunto Carlo Lucarelli, che darà una presentazione generale di Scriba. Carlo Lucarelli è sia scrittore che autore, anche conduttore televisivo e regista, e aprirà il festival il 7 novembre. Per quanto riguarda invece i punti di incontro, per chiunque ci volesse andare, i luoghi scelti quest'anno sono la libreria Coop Ambasciatori, le stanze, la libreria Coop Zanichelli, Giannino Stoppani, libreria per ragazzi e La Linea. Quindi chiunque volesse partecipare, sia scrittori emergenti che esordienti, può farlo partecipando al contest riguardante il settore che gli interessa. Può trovare tutto comunque online e gli aspiranti dovranno scegliere una delle categorie, mandare la loro idea e il modulo comprensivo di liberatoria. Quindi ragazzi, per chi è interessato potete iscrivervi o comunque soltanto partecipare e ascoltare le interviste. Vi aspettiamo numerosi, ciao! Ciao! Aspetta caro, ma non ascoltiamo nulla? Ah, oddio, scusate! La canzone che ascoltiamo si chiama Dance With Me Harry di Etta James. Ciao! Ciao a tutti! Hey, baby! This is what you have to do to make me love you too. Got to dance with me Henry, dance with me Henry, rock with me Henry, talk to me Henry. Dance with me, Henry. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on. While the cats are bawling, you better stop your stalling. It's intermission in a minute, so you better get with it. Dance with me, Henry. You better dance while the music goes on. Roll on, roll on, roll on. Woo, woo, woo wee. Henry, you ain't moving me. You better feel that boogie beat and get it out of your feet. You gotta dance with me, Henry. Swing with me, Henry. Rock with me, Henry. Cling to me, Henry. Dance with me, Henry. You better dance while the music goes on. Roll on. Henry, a swing with me Henry, a cling to me Henry.